America 24 di Mario Platero. An ongoing euro crisis could cause a domino effect, driving up borrowing costs for other countries with large deficits and causing volatility. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce che avete ascoltato ha un accento americano, inglese impeccabile, ma è la voce del primo ministro greco George Papandreou. È stato alla Casa Bianca, si è incontrato con il presidente Obama, non ha chiesto aiuti diretti, ha chiesto semmai aiuti nel controllare l'eccessiva speculazione, e la Grecia ha anche allargato il suo campo d'azione al Fondo Monetario Internazionale. I think the Greek American community represents this tradition as well as any. Barack Obama ha parlato della relazione con la Grecia, dell'importanza della comunità greco-americana, ha cercato di non impegnarsi troppo sul fronte finanziario, ma dietro le quinte abbiamo saputo che la Casa Bianca è preoccupata per quel che sta succedendo in Europa. È chiaro che non ci si può mischiare troppo negli affari europei, ma se la questione greca non sarà risolta, si dice, forse partirà un effetto domino, e questo effetto domino si sa dove partirà, non si sa dove finirà. Potrebbe anche arrivare a colpire gli Stati Uniti, che in fatto di posizione debitoria oggi non sono esattamente in ordine. E questa era Angela Merkel, il cancelliere tedesco, lo avete ascoltato, stava parlando ovviamente nella sua lingua, non in inglese, ma il messaggio della Germania per ora è prudente, non basta quello che ha fatto la Grecia, si chiede di più. Eppure in America lo sforzo di Papandreou, anche alla Brookings Institution, dove è stato apprezzato, una manovra del 4% del PIL non è esattamente una cosa facile. Da Washington la pressione a questo punto parte nella direzione della Germania. Il governo greco ha quindi preso le misure che attendeva da lui. Le pressioni sono anche su Sarkozy, su Nicolas Sarkozy, il presidente francese, che ovviamente dovrà agire di concerto con la Germania. Se l'America riuscisse a persuadere il Fondo Monetario Internazionale a intervenire, beh, per l'Europa si pone un problema. Avrà dimostrato di non essere in grado di risolvere un suo problema interno da sola. Per Sarkozy c'è un problema, diciamo, di relazioni. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, è francese. Non chiede di meglio di poter risolvere un problema europeo da Washington, cosa che ovviamente Sarkozy non può accettare. Di tutto questo parliamo con il premio Nobel Gary Becker. Well, it depends on how they're regulated. I think it would be a mistake. L'esordio di Becker nella nostra intervista riguarda la questione dei CDS, i cosiddetti credit default swap. Ritiene che regolamentarli o addirittura bloccarli sarebbe errato. Porre alcuni limiti alla loro operatività invece potrebbe essere giusto, perché ci siamo resi conto, ha detto Becker, che spesso operano fuori controllo. E parlando di Grecia, Becker identifica quello che secondo lui è il punto centrale del problema, che è un problema che diventa poi secondo lui strutturale, cioè che il debito della Grecia è in euro, ma il problema della Grecia è che non può stampare euro per pagare questo suo debito e quindi produrre in qualche modo un'inflazione interna. Dunque c'è una rigidità esterna che rende la situazione molto più complessa, e affrontiamo con lui la questione degli Stati Uniti. Si dice che anche l'America potrebbe correre dei rischi. Per ciò che riguarda gli Stati Uniti, Becker dice che se si guarda ai future sui tassi di interesse, beh, in effetti forse c'è una speculazione che comincia a immaginare un rialzo dei tassi di interesse in America. C'è qualcuno che può immaginare che il debito americano sia troppo forte, troppo elevato, che il disavanzo sul PIL sia elevatissimo, arriviamo addirittura al 10%. Eppure, conferma Becker, in questa situazione non avremo un rischio America. Alla fine, anche se ci sarà un attacco all'America, sarà più un problema d'immagine che un problema sostanziale. Germany in particular, and maybe France, but the strong EU powers, I think they're stuck. E dunque la palla torna nel campo europeo. Secondo Becker dovrà essere l'Europa a prendere l'iniziativa e l'Europa alla fine si traduce in un'equazione Germania-Francia. Sono incastrati, secondo Becker, alla fine non potranno uscire dall'angolo in cui si trovano, dovranno esporsi soprattutto la Germania, pur con tremenda riluttanza che abbiamo visto al suo interno, dovrà intervenire e fare qualcosa. Una delle ipotesi che si è discussa è quella della istituzione di un fondo monetario europeo. Sentiamo Becker. Depend very much on what, if it was created, what kind of restrictions that would impose on the behavior of the individual members. C'è da chiedersi, dice Becker, come funzionerà questo fondo monetario europeo. Diventerà una specie di paniere dal quale si potrà prendere in prestito per aiutare i paesi in difficoltà, però questo comporterà un rischio perché si tradurrà in un invito alle nazioni meno rigorose a così abbassare la guardia e dunque a comportarsi in modo non necessariamente cristallino, sapendo che poi qualcuno interverrà ad aiutarli. Dunque le restrizioni su questo fondo diventeranno importanti, ma tutto questo dà origine a un processo alquanto complesso che non aiuterà la soluzione a breve necessaria per la Grecia e aggiunge lo stesso Becker, c'è comunque una Banca Centrale Europea che ha la liquidità necessaria per poter intervenire e difendere se necessario l'euro attraverso la creazione di linee di credito che possano essere messe nei confronti a vantaggio della Grecia. Che bilancio possiamo trarre da quel che è successo ieri a Washington e dalla chiacchierata con Becker? Beh, innanzitutto Becker, per esempio, ritiene che se gli attacchi andranno avanti, sì, potranno arrivare forse alla Spagna, al Portogallo, ma non arriveranno all'Italia, sostiene. Ritiene anche che ci siano due problemi strutturali in Europa. Il primo, non esiste una politica fiscale centralizzata. Bisognerà prima o poi sacrificare le sovranità nazionali e muoversi verso questa politica fiscale che si così che agirà in parallelo alle politiche sulla moneta unica e dunque sull'euro. Il secondo problema è più complesso. In America, ad esempio, c'è più flessibilità. Se uno Stato è in difficoltà, interviene l'immigrazione, il movimento della popolazione più che l'immigrazione. In Europa questo è più complesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Simon & Garfunkel sono di nuovo insieme. Hanno annunciato proprio ieri che faranno un tour in Canada e in Nord America. Partirà il 24 di aprile. Dedichiamo a loro la canzone del giorno. Chiamo Mrs. Robinson. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.